9, va bene, questo 6940, dove sei? A casa sono, a casa tu mi arrivi lo stesso, c'è la pondoscala qua. Cappa. Spera un attimo il telefono. Cappa, dai che mi sto facendo, mi sto lavando un po' di roba, vai vai. Ehi Antu, cosa è successo, perché? Ho messo di zendi. Abbasso, aspetta un attimo, che ti abbasso dal Mikey Gay. Guarda, così meglio ti va. Cazzo, c'è una cosa allucinante. Cazzo, in questo smitter che è un pochettino... Cioè, sì, 9 più 40. Cioè, proprio a fondo scala, fondo a fondo. Sì, come che sei qua, sotto casa. Sul palo ascensore, Anto che la sto tarando, la sto tarando. Portata 101, 102, va bene così, K. Ne stavo approfittando perché non c'è vento per la taratura. Poi chi è l'altro avanti? Scusa tu che forse tu non lo senti. Falconero, buongiorno, sono Luca Flipper da Lima Delta in fase di taratura di un'antenna che deve partire, K. E stavo chiedendo appunto un controllo a Antonio. Però Antonio è vicino. Sì che arriva anche a Sorso. Tu sei qua 9 più 9,5, dai, 9,5. Ho abbassato il macchine a 2, fra. Lima Delta, booty booty, dai. Capo, adesso che ho aperto lo squelch lo sento pure adesso. Salutoni, Falconero. Capo, Antonio Bombolo sono. Antonio Bombolo, Capo, non mi senti? Capo, come mai arrivi così basso dalle altre volte? No, a casa sono a casa. Aspetta, accendo l'altro apparecchio che è un po' più forte, dai. Beh, sta cambiando apparecchio, Capo. Niente, io solite antenne che spedisco, sono in fase di DICOS. Litteratura, K, vediamo un po', guarda il segnale invece piuttosto, guarda. Ora, ora, vedi un po', si è migliorato. Questo che vuoi fare la baraglia di fare lui? Chi è avanti? Che vuoi fare la finocchia che sei lui? E quella ce l'ho sempre avuta. Ciao fra, buongiorno, no, stavo tarando un'antenna e niente, sto chiedendo un controllino, K, abbiamo detto di abbassare le voci da sorso addirittura. E come? Allora mi chiamo il buon nome, sì. Ah, tu sì, ciao Emanuele, pensavo che era Franco California. Abbassare le voci da sorso. Papà, allora. Papà, mi sentite? Ehi, a tu. Sì, ok, dai, vado un attimino a finirmi i piatti. Stavo dando una mano a Sara, ok? E fai con comodo a tu, dai, intanto io sto subito chiudendo che nella scenda lo preparo per la partenza. Cappa, cappa, ma noi avanti. Rimango in quell'exit, devo fare delle misure, dai. Ma forse arrivi con quell'antenna, ma lo sarei combinato. A me tu sei certo. Sia, forse è la più forte che abbia mai sentito. Che le solite antenne costruiscono tu? In questo periodo ero col dipolo. Le solite antenne tu, ti ho mandato la foto che è sul paracensore e adesso niente, l'ho collegata un attimino, ma non avevo dubbi dallo strumento. Dall'analizzatore non si scappa. Cappa. Ma cosa? La gara attaccata chi c'ha fanno un'altra? Siccome sono le nuove bobine, capito? Adesso me la faccio per me, così la metto, la ripristino, cioè la ripristino, ma la rifaccio da zero, con capo da 6 e me la metto sul tetto. Sto andando col dipolo negli giorni scorsi. Cioè il più forte di tutti, capo qua, è una cosa allucinante. Cioè, ma forte per me. È meglio così, stavo aspettando a Claudio, ma no, non è a casa, per darmi un controllino anche lui. Che regala! Bella giornata oggi, c'è appena il venticello, ma proprio niente di che. Papà, sì, oggi era bello andare al mare, era. Vabbè, pazienza, Zani Bolcio, un lock gas, Zani Bolcio, finora mi farà da giosso. Ma qua puoi girare però, oppure neanche qua? Puoi girare, però cosa giro, in chi vi giro? Se me ne scendo gas a Platamona, mica giro lì. Capa. Andà bene, dai, vediamo vediamo un po' se c'è Falconero. Allora Antonio, mi piace correre un attimo. Va bene, riprendete voi, dai, che vado a staccarmi e fare l'ultima cosettina. Dai, oppure aspetta, dai, entra Claudio, mi faccio dare un controllo da lui. E niente, la lascio stare allora, dai, riprendete comunque, dai. K, c'è un segnalone, veramente un segnalone, qua a casa mia, cioè, è tutto di rado, non venne più, già te l'ho fatto vedere, quella a LED, cazzo, non c'è, tutti i LED accesi ci sono, come io, quando io premo la portante, e onde vuoi andare? vanno molto bene queste antenne. Vanno molto bene, forse per quello che ne sto facendo un bel po', capito? Ne sto spedendo sempre. No, sono ottime, e hanno anche un'ottima ricezione. Falconero, 9.5 qua, sì, 9.5, contando che l'antenna è bassa rispetto a te comunque, non è sul tetto, ma è sul palo ascensore che utilizzo per fare le letterature. K. Lì le antenne che faccio io per le 27, le Luca Master, capito? Niente, mandami il tuo telefono al mio, dai, te lo dico, segnatelo così ti posso girare qualche foto. Vabbè, bianco per me. Vabbè, se lo vuoi il mio numero io te lo do anche qua, non c'ho problemi. Eia, d'accordo, a più tardi fa. Dai, ok, ciao. No, Antonio era a casa Antonio, abita a zona Sassari Vecchio, capito? Si è sentato. E capa, dai, io vado, devo fare delle cose a casa e ci sentiamo dopo, io la radio la tengo accesa, insomma che si senta qualcuno, ok, dai, ce la risentiamo. Ehi, perché dovevo fare delle prove con un'antenna, dai, capito? Sì, allora mando un messaggio, glielo dico. Sì, glielo ho già mandato io, dai, non c'è problema. Bene, sta andando adesso il microfono? Sì, benissimo. Che hai fatto? E cosa hai fatto? Di nuovo tutte le saldature, che erano tutte fatte dal cazzo di cane. Tu ragione avevo, sicuramente era disaldato quello della massa. No, ma probabilmente non era disaldato, tanto è che toccava da qualche parte, capito? Ma qualcosa c'era che non andava, ma dentro il microfono proprio? No, connettore dal microfono al baracchino. Tutto fatto la cazzo. Ma tu ne hai già da due, gatto varia un carrozzieri, con tutto il rispetto. Troppo stagno, capito? Andava a toccare dall'altra parte, come muovevi. Anche perché io i microfoni li inverto, li metto uno da una parte o dall'altra e sono tutti uguali, capito? Quindi magari stacca e attacca, toccava. Adesso l'ho tutto isolato, ho messo il termoretringente, fatto come Dio comanda, anche se non ci vedo, però quando butto l'occhiale era giù fatto. Almeno non fischia, dai. Ma la pedivella la butta via. Ehi, ho messo la pedivella nuova proprio. Dico da moglie li vorrebbe, dai, continuate. Vabbè, io andiamo a fare una passeggiata con i cani, dai, visto il sole, bello caldo, a dopo, ciao. Non ti vi lasciai, no? Sole bello caldo. Andavo. Ehi, io l'ho già portato, anche se vuole tornare a uscire, dai. Ciao Garie, sentiamo dopo, ciao. Ciao lui, dai. Già, cavolo. Oggi sarebbe stato bello a fare un giro al mare. Fancula Eddie, lo lockdown e andiamo anche la vicina. E domani Antonio si può uscire, dai, domani siamo in zona arancione, non ci possiamo allontanare molto, ma comunque già si può uscire. Va bene, dai, e stai a casa, dai una mano alla signora, sì, io sono uscito, ho fatto un po' di spesa, adesso mi sono rinchiuso qua, mi faccio due fesserie, forse qualche spostamento, qualcosa, adesso vediamo, dai. Ok, ci sentiamo dopo, Arturo. Comunque sta andando bene, mi confermi che sta andando bene? Alla grande, Cla, alla grande. Perfetto, modulazione bella, chiara, pulita, forte, tutto ok. Va tutto ok, tutto ok. Cavolo, ma fatto in piedi poco fa chi sa Luca Master, chi sa Antenna. A trapando scala ma arrivi via. Cioè, è difficile con quell'altro apparecchio, è difficile che arrivi sul 40, cioè, sopra, proprio sopra la scala. Cavolo, arrivava fortissimo, io gli arrivavo 9,40. È buona quando è così. Siete vicini, Anto, siete vicini. Poi Luca c'ha una zona micidiale, a me mi arriva 9,20 col dipolo, capito? 9,20, cosa che mi arrivano con la mantova 9,20 a me da Latteroci. Quindi c'è una zona buona, alta, bella, aperta. E poi siete vicini, capito? È normale. Ma c'è una bella ricezione, Luca, non ce n'è problema. Ah, io così forte non l'avevo mai sentito, è la verità. Forse perché era sempre con dipolo, non era mai in verticale. Figura, da me in verticale è il segnale più alto di tutti. Manco chi attacca lineare mi arriva così, guarda. Mi arriva quanto mi arriva Marco Condor, che è il segnale più forte che ho. Perché quando attacca Marco è 9,40, liscio è 9,30 ed è vicino a me. Capito? E lui mi arriva a 9,30 liscio, dalla veloce con l'antenna verticale. Ha un segnalone un bel forte. Pure qua, cavolo, mi accende tutto. No, è buono, sono contento. E qua, vabbè che io sono vicino, non sono lontano, quindi. Il segnale più forte che io abbia mai registrato in verticale, con l'antenna verticale. Oltre tu che mi arrivi forte, cazzo, ma ho rimasto stupito, la verità. O è perché non l'avevo mai visto in verticale. E poi il secondo che mi arriva forte è coso, è Tore, mi arriva molto molto forte. Oh, ci siete? Sì, avanti! Cosa stai usando? Adesso sono in verticale, KK. Buongiorno. Il tuo segnale, lui, 9,30. 9,30. KK. Bene, bene, solito, allora va bene. Ecco, così mi preparo per la spedizione. E andiamo in Puglia, questo mese andiamo in Puglia. Martita ci vede antenne, è peccato che a me me l'aspetta sicuramente troppo vento prende qua, se non l'avrei messa una di quelle, cazzo. Giusto, avrei fatto un attacco unico, intanto non ho problemi col commutatore, un attacco unico direttamente per i baracchini, un'antenna per i baracchini e un'antenna per i K. Adesso devo fare una Claudio di Porto Torres anche, perché mi ha detto cazzo con la manto faccio QRM alto, ma dico. Dice quando avevo la Game Master non ce l'avevo tutto questo QRM, mi ha detto me ne fai una, fatta, finita, pronta a montare, delle tue, andare. Va bene, KK. E come fai a trasportarla lui? No, bisogna farla lì sul posto, perché bisogna aprirla, metterci la doppia struttura, poliuretano, capito? Bisogna farla lì sul posto. L'antenna gliela preparo qua a casa, ma poi con tutta la storia bisogna andare là. Ah, ho capito. Va bene, va bene. Oggi sta andando bene questo microfono? Sì, benissimo. Manco male. Ho rifatto il connettore nuovo, questo è quello che avevo già comprato, praticamente già fatto, dai. Già pronto, l'unico che avevo Midland. Ha iniziato a fischiare, l'ho rifatto tutte le saldature del connettore, toccavano in una gullata, ragazzi, boh, io ho capito perché non isolano, soprattutto la massa va isolata. Invece c'era proprio la calza tutta libera, con tutti i filaccini che toccavano da una parte e dall'altra. Riprendete voi, ok, riesco in terrazzo. Va bene, ci sentiamo dopo. Ma c'era qualcuno che voleva entrare? Oh, buongiorno. Ciao Vanni, buongiorno e tanti auguri per le festività, oramai è passato tutto. Avanti Bombolì, dove stai andando a mettere a bagno, che cosa? A pulire la moglie di furretti, cioè a pulirli. capito? Ha pure un po' la cucina. Capa, che è Vanino di Sorso, buonasera! Ciao Vanni, no, c'è un'antenna che ho fatto per un ragazzo della Puglia, Alessio, e stavo facendo le ultime tarature per spedirgliela, dai, Claudio, soliti controlli, adesso vado e la smonto e la riscattolo, dai, ci sentiamo dopo Vanni, grazie del controllo. Scorsi sono in orizzontale col dipolo, capito? E che la devo rimettere su la mia, l'ascesa per ripristinarla. Capa, capa, per revisionarla. Ok, va bene, lasciate prendete voi, ciao. Ciao, ciao, carriere. Ci aggiorniamo dopo, eh. Non c'è problema. Non c'è problema. Manni, già mi senti, sono col baracchino, là, 5 watt, 5-6 watt, già mi senti lo stesso. No, vabbè, già va bene sto baracchino, c'è cioè, l'MB più 5 attaccato, ieri stava fischiando, tutto fischiare, e c'era il connettore che non era fatto a regola, la mattina l'ho rifatto tutto nuovo, c'era i fili della calza che praticamente andavano a toccare su altri punti, capito, quindi fischiava. Adesso ho messo il termorestringente nella calza, piccolino, l'ho risaldato e... è isolato, quindi non fischia più. Va bene, va bene. Vino, siamo in Vitu. Ah, beh, certo che sì. No, io no, non ho toccato niente. No, ho fatto una bottiglia di sfumante il giorno di Natale, la notte di Natale, me ne era metà ancora. Ho messo il tappo del frigo, no, non mi va più Vanni, ormai sono finiti i tempi belli. E poi riparti? Miscelità ti hanno fatto? Va bene, sono contento, finalmente l'hai chiusa sta cosa, quindi tirano tutto quello che non ti ha dato e va bene così, e allora riposati, se sei bagato, se stava nuda, te li hai lavorati, ti hanno trattato a calci in culo e quindi va bene così. Quindi devi anche rientrare. Proprio di no, che non sia molto allegro, questo non c'è ombra di dubbio, su questo non c'è ombra di dubbio, però cazzo, se deve rientrare allora sono problemi suoi, perché deve pagare tutto quello che non ti ha pagato prima, più cadere lo stipendio, per giovani, Bene così, sono contentissimo, almeno hai una notizia buona per l'anno nuovo. C'è qualcuno? Sì, io faccio le voci. Tu sei tra? Sì. E vedete tra la voce strana? La voce strana? Che solo tu intendi strana? C'è la... la cosa, come si dice, l'aspiraforte. No, ma come il microfono diverso stai uscendo? Cos'è questa radio? Come il microfono diverso? Ma sempre uguale. Come se ti sento male, tra? Ma però bello, in cuffie. Solo tu intendi male. Cosa hai toccato in chissà radio? No, niente, ti sento una voce tipo Paperina, non è la voce solita tua. Avrai toccato tu qualcosa in quella radio? Sono con 440, nell'altoparlante esterno. Non è Paperina. Mo. Vediamo un po', abbassiamo così, così Paperina. No, non è questa l'altra, bassa, la sento diversa, non è, ma che radio stai usando? E che microfono? Sempre lo stesso, MB più 5 con il 574. È diversa la sento, sento diversa, più citofonica. Vediamo, mettiamo tutto a zero. Così citofonica. Ho provato a parlare, ieri ti ho sentito diverso. Così citofonica, 1, 2, 3, 4, prova. Sembra che ti mancano tutti i toni bassi. Ah, allora dillo. Ecco qua. Mettiamo così. Così ce li ho i toni bassi. Un po' meglio va, però non è la solita tua radio che ti ho sentito l'altro giorno. Non ho toccato niente io, vabbè. Guarda se non hai toccato qualcosa tu, vediamo, aumentiamo appena, ora, ora, così va meglio? Io la sento sempre come prima, un po' più alta ma è come prima. Vabbè, non ho toccato niente, sto parlando adesso con Antonio Bombolo, con Cogio, con... non mi hanno detto niente, sempre uguale, io non ho toccato nulla. Anche il segnale vedo più basso qua. Eh beh, sono con 4 watt. Prova, c'è modo di cambiare radio, non vorrei che ci abbia problemi io. Prova a cambiare radio un attimino per curiosità. Prova a parlare. Ma va bene, 1, 2, 3, 4, prova radio. No, già ti sento forte, eh. Ma questo che cos'è? Che radio è? Questo è anche il segnale più forte. 440. Sento a burutto io, cazzo, ma aspetta un attimo, volevo attaccare l'antenna, cioè attaccare il cavo dell'altoparlante. Non ho capito. Prova a parlare qua. Ma anche io ti sento strano, non lo so. No, adesso ti ascolto bene, la radio è buona. Beh, quello là sento lo stesso microfono, beh, non è che ho cambiato niente, vai. Parlo con quello. Non lo so, no che sia brutta, là, è perfetta la radio, ti ascolto bene, però ti sentivo un pochettino diversa come modulazione da ieri, se la stessa radio di ieri, ieri era molto più naturale, oggi sembrava più citofonica. Ti ripeto, io non ho toccato niente, tutto regolare come era l'altro giorno. Vedete la Jambur Radio, per curiosità. Io non ho toccato niente. Ti sto ascoltando adesso con quello grande. Questo è sempre lo stesso, Robetti, ho detto. MB più 5 è Midland 78574, non ho toccato niente. il Midland? Sì, questo è il Midland. Allora ti ascolto bene adesso, buh. Stai sempre già bene da fede, magari hai toccato qualcosa. Ci avrai l'NB inserito, non lo so, buh, 4.40. Cosa ne so io? Non tocco mai niente. Quando le radio per me vanno bene, no? Non devo stare a tocca che ti tocca. Cos'è questo? Si sente un fischio sotto, forse è qualche microfono, stai muovendo qualcosa. Stavo facendo una regolazione, dai. Comunque è così, non ho toccato niente. No, adesso ti ascolto bene, perfetto. Sicuramente qualcosa, dai, nel così, qualche cazzata, no, questo radio già lo sai come so. Vabbè, un baracchino, giusto per fare due chiacchiere, già va bene. No, ti ascolto bene, allora forse il cavetto di alimentazione di dietro del 440, lo voglio vedere dopo, faccio un'altra prova. Con 140 ti ascoltavo bene, adesso ho cambiato radio, ti sento perfettamente come ieri. E allora c'è il 440, cosa vuoi ti dire? Infatti io non tocco mai niente, se le radio vanno bene lascio stare. Sì, ma probabilmente questo spinottino anche ieri l'ho mosso, il jack piccolino che attacchi dietro la tua parata esterna, adesso guardo se c'è qualche massa che non fa funzionare bene, già ne ho uno nuovo pure per provarlo. KK, va bene, va bene. Questo è 94. Va bene, non c'è problema. E più o meno come quello là, da. Questo è il segnale qua sta segnando, esatto. E qua adesso sta andando un po' più forte del normale. Sì, va bene, io sto andando con 5 watt, dai, modo watt e 6 watt. Questo qualcosina in più la sta tirando fuori, dai, provo. Guardate che non saturo con questa radio. Diciamo che non sia al top, a me piace più quella del 440. Vabbè, sicuramente è molto meglio. Poi ieri c'è una funzione, ma quando mette l'accordatore ti appare su quel display verde la funzione, perché c'era scritto accordo, stava facendo un accordo. Certo, tutto di lì ti segna, in quel piccolo grafico che c'è. Ehi, infatti ho visto lo stava facendo da solo, quindi sicuramente ce l'ha, a meno che quando viene già glielo chiedo a questo qui. Deve camminare, la lancetta e lo Smith deve camminare, si accende la rossa, accorda e poi si spegne e ti dà il grafico, te lo segna, attitudine in funzione. E infatti è uscito a T-Tune ieri, però sto pensando, siccome è già con un altro accordatore esterno e non ce ne sono stazionari, magari non funziona per quello. Sicuramente, se non ci sono stazionari no, non accorda, è normale, però la luce si accende, quindi c'è. Sì, ho visto che in quel display è uscito a T-Tune, è apparso, e c'era una specie di grafico, una cosa che delle cose che si muovevano, degli indicatori. Sì, allora già c'è. Forse non agisce perché praticamente non ci sono stazionari, capito? Io, va bene, ok, non c'è nessun altro, solo tu ci sei. No, solo io, c'era Vannino, ma è arrivata gente e si è spostato. Antonio Bombolo sta lavando i piatti, Luca Del Monte è andato a portare i cani, nessuno ne ha dei cani. Sì, ne ha due, uno lui e uno la compagna Marina, capito? Aspetta che mi leggo questo messaggio, poi ti dico cosa sto facendo, sono in trattative per una cosa. Io sono Antonio. Antonio. Dici che devi vendere i piatti, cosa lava piatti sei passato? No, stavo pulendomi la cucina. Ho preso, la giocava tutti i furretti. Ha giubilato, smontato gli ugelli, li ho puliti, li ho tutti surati bene. Adesso funziona con una meraviglia. La manutenzione che molti non fanno. Ma cosa li fai? Tu li metti a bagno nel coso, nel prodotto? No, li tolgo e li turo con l'ago e poi un poco di GRC e li pulisco. In officina qualche volta l'ho fatto, li ho smontati, li ho messi a bagno in quel liquido prodotti per i motori, tutto quanto, e poi soffiate a pressione con l'aria. Il vostro bussi di volta, dopo appena per il GRC e via, vabbè, tu c'è quel prodotto lì, c'hai. Però vanno, va bene, dai. Piano piano. Guarda come escono pulite. Ma non è male, poi c'è gente che non ne ha mai fatto nella vita della cucina, vedi tutte queste fiamme strane e cose, tu già non lo sai meglio che mettere il tuo quello. Capa, no io quando compri la cucina vogliono cambiate perché li vendono con quelle di Lugello, cioè con quelli, ma secondo a me, con quelli del metano. Perché sono per altro tipo di cosa, te ne danno due tipi, ti danno il propano e mi preparano il GPL e il metano. Ma io, cioè, molte volte gli ho detto, ti faccio perdere le pentole già. Ma se metti il metano funziona lo stesso? Uguale all'aria propanata, metano e aria propanata sono uguali. No, se uno mette la bomba, cioè la bomba, no, noi abbiamo metano, però quelli che se fai funzionare te ne dimentichi che nella cucina lasci quelli a metano, accende lo stesso, cosa fa la fiamma tutta dispersa? Tipo le pentole a merda. Perché c'è troppo larga la fiamma? Fiamma bianca ti fa. Ah, così, vabbè, meglio non farne invenzione, no, solo per capire. Dai. Ok, c'era Claudio che stava ricevendo un messaggio, vediamo se è rientrato. Avanti Claudio. Claudio non c'è, facciamo un attimino di bianco, un secondino di bianco e vediamo cosa ci dice qualcuno, se no riprendi tu Anto. Capo a me. Ho appena finito, mi dice, stiamo a re tutto. Già me le ogni tanto queste manutenzioni bisogna farle, perché sennò è un casino. Naturalmente bisogna saperle fare pure, non è che uno si vuole improvvisare, ci vuole la chiave a tubo, tirato bene, ripiazzati nello stesso punto dove li ha smontati senza mischiare niente. Allora tu me le potresti anche mischiare, io te li metto a posto, te li metto. Vabbè, tu già sei del mestiere, diciamo, io per logica quelli più grandi li metto nel fornello grande e quelli più sottili nel coso, ma c'è gente che si mette a passare spilloni dentro, allargarli e li rovina tutti. Ho lo spillo fine uso io, con i girecini bocca tutte le macchine e faccio la manutenzione, capito? Io non della cucina, di altre cose li pulivamo, prendevamo il filo elettrico, quello che c'è, come si chiama? Il filo normale dentro, ho detto lì il rame, lo infili dentro piano piano e pulisci. Già si può fare, devi stare attento. Però già va bene, dai. Cavolo. Sì, naturalmente non devi stare attento che non ti si tronchi dentro, se no te l'hanno venduto un genio di bruciatori, di roba di officina, di caldaia, cose così, avevamo di gasolio, però stiamo parlando. Ah sì. Perché prima cosa ci avevate voi il coso? Qualche camera per scaldare, no? No, adesso abbiamo ancora il bruciatore a gasolio, prima era cherosene, ma ormai non si usa più, adesso ci sono le vernici ad acqua, basta fare una bella ventilazione, c'hai le lampade a raggi infrarossi che assorbono in 10 minuti, con quella infrarossi immediata, è come quando ti metti il coso sotto il sole, in un attimo evapora tutto l'acqua. E ditemi un bel buon sotto all'usore a, come si dice, a sciccaremi. Sì, va bene, naturalmente, non lo devi fare in pieno estratto, perché se hai appena verniciato lo metti sotto ti si greba tutto, perché l'essiccazione è troppo rapida, bisogna stare un po' attenti, almeno devi farlo andare un po' fuori polvere e poi piano piano lo puoi mettere. Però se c'è un colore nero, cacchio, la vernice la porti fuori al sole, in pieno sole ti si spacca tutto, fai danno se non stai attento, perché arriva anche a 80 gradi, a 80 gradi la vernice la crepi. Già lo so, già, infatti non ci va così tanto. Sì, ci sono i bianchi, addirittura se lo fai su una vernice bianca e tieni troppo con la lampada infrarossi, diventa rossiccia e cambia di colore. Non so, Guglia, cosa succede? Vediamo Claudio se ha sistemato. Avanti Claudio, se ci sei, batti un colpo. È ancora indaffarato, No, dice stava rispondendo per un'operazione che deve fare, vediamo un po', io sto facendo ora, poi devo andare dopo a mangiare la mia sorella, tra un po' vado. Detto, esci che accendiamo, ho piazzato lo stereo a mia figlia nella macchina, gli ho regalato lo stereo, non giocava dopo quello che c'era prima, gli ho messo un altro, più di questa nuova generazione, le touch screen che ci hanno tutto incorporato, che ci hanno per attaccare un sacco di roba, poi vedete anche la TV se vuoi, se c'hai, si può attaccare il telefono e Caffa. Tu hai due, un maschio e una femmina, vai. No, io ho due femmine. Ah, pensavo c'era un maschio e una femmina. No, già bastano i due di femmine, cioè per i pus. No, c'è una grande di 23 e una più piccola, ne ha fatto 19 a dicembre. Scappa. No, pensavo che c'era anche un maschio. No, mio fratello c'ha tre maschi, che sono uno peggio dell'altro, a parte il piccolo che è più tranquillo, ma anche lui sono due delinquenti. No, sono rientrato, ok, sono qua, stavo ascoltando, sto messaggiando con Luca, un attimino che ho una cosa, mi porto, però devo sapere. Va. sempre con parenti, chi c'ho che tutti ritinati la tredicesima, appena abbigliato, capi di quella ti manca. No, cazzo, cioè, se devo comprare qualcosa e poi non mi danno il carretto in dotazione, allora non ne compareggio. No, io sono a caccia della T250, Roberto, e l'abbiamo trovato. Però, chiaramente io voglio le specifiche che chiedo, perché la T250 è nato come correttore di linea automatico per il 140 e per il 680. Capito? Se però non c'è in dotazione il suo carretto originale Kenwood, che praticamente eccita l'AGC e il PTT per far funzionare l'accoratore automatico, e non te ne fai niente dell'accoratore, perché non funziona senza quel carretto, capito? Quindi io voglio sapere queste cose, se no io non ci ributto 250 euro, capito? Che costa 250 euro. Eia, vabbè, al limite già si può trovare, se riesce a abbassare il prezzo già si trova, già su internet si acciappa tutto. Non, chi me l'aveva detto che ne aveva uno di altri 250, non mi ricordo chi, ne avevo sentito da uno, però non me lo ricordo. No, quel carretto tu non lo trovi manco se ti ammazzi, perché quel carretto è stato fatto dalla Kenwood originale, è un carretto grigio, dove c'ha due connettori, maschio e femmina, capito? E non lo trovi, e a farlo è un casino, te lo può fare solo la CSong, te lo può fare Bianconi, lo poteva fare Guidetti quando era appunto adesso in pensione, chiuso, concessionario Kenwood, lo può fare solo un'azienda che fa queste cose, non di certo lo può fare nessuno, capito? Perché è un cavo molto molto particolare. Già lo so, devi sapere tutte le posizioni. Io l'ho fatto, me l'avevo ordinati quei connettori, cioè maschio e femmina, per attaccare l'analizzatore di spettro audio quando facevo le prove, l'ho attaccato dietro la spresa che c'è scritto ACC1 o ACC2, adesso non mi ricordo, e li avevo trovati su internet i capi, sia maschio che femmina. Poi era capitata una macchina in officina che c'aveva non so che cosa dentro, dalla Kenwood, pare uno dei primi telefonini quelli fissi per macchina, e c'aveva le stesse connessioni. Ed è un cavo, mi pare ci sono 12 o 14 pin dentro, e quello che ho trovato io era dentro una macchina, ti ripeto, che poi l'hanno demolita, e c'era tutto il cavo di alimentazione Kenwood, originale grigio, uguale a quello del, vabbè uguale, penso che sia uguale come colore a quello del 440, del 70, non lo so, che c'aveva le stesse connessioni. Non te ne ha fatto tirare. No, intanto lo signor Vaziano ne ha smontato tutto questo qua, si è recuperato, ma io sto parlando 20 anni fa, quando c'erano i primi telefonini fissi in macchina, che dietro c'avevano un amplificatore e tutto, questo poi la macchina non doveva vendere, e ha tolto tutto, siccome era un cavo un bel lungo che arrivava sino all'abitacolo, cioè dal baule dietro, mi pare era un Mercedes o un BMW, arrivava da dietro, andava sino a dentro la macchina dove c'è il volante, dai, il volante di guida, e di lì c'era anche un'aggiunzione, c'aveva la prolunga per farla arrivare dentro. E tu sa che cosa del genere sarà? Sì, penso che più o meno magari utilizzavano altri tipi di connessioni, però la logica è quella lì, cioè il coso, poi vabbè, quelli che utilizza per l'accordatore magari anziché utilizzarne 6, quei 6 ne usa altri 6, e boh, tanto era tutto cablato, tutti i cavi erano cablati. Non so se c'è ancora da parte quel cavo, mi Claudio, eventualmente già te lo faccio vedere se ti serve. C'era anche Luca del Monte, avanti a te Luca. E sono qua in ascolto. Lo sto ascoltando. Ma a casa tua sì? No, giù. Con la radio solita però che usi? Sempre quella solita, non ne ho altre qua, c'è solo sempre questa. Una bomba, questa radio mi piace troppo, credo. Bellissima, forte. E già andava. Ma di Dio arriva canta e temi. E poi si chiede pure più forte di me, lui sicuramente in una zona più favorevole, perché io sono tutto dalla parte alta. Luca, se ha la veloce probabilmente arriva anche più forte di me. Più forte di te? No, ma arriva abbastanza forte, ma forte però me. Cioè, 12 e 5 dB in più e lui... lui è 9,25 e tu sei quasi 9,30, sì. Eia, Luca, ma è cambiata antenna tu pure? A boomerang c'è. Cacchio, ha avuto un miglioramento allucinante, bella chiara forte radio 5. Microfono normale e watt sono 10 watt, 12 watt ondulati. Microfono normale è questo. Sì, microfono normale, sì sì. Sempre quello che aveva a casa tua, non è cambiato niente. No, microfono, l'unica c'era nel Mavic più 4. No, quando hai iniziato, questo è l'iPhone, così è. Quello che mi ha inviato tu, sì. Col microfono che utilizzavi sempre a casa tua, il solito, quello lì. No, io usavo il Mavic più 4 a casa. Ah, io pensavo che usassi il palmare, questo è un palmare. Ehi. Una bomba, spero non essere. Vabbè, gli ha cambiato la capsula però. No, così è nato, così è. Questa è una bomba, è fortissima come era. No, pensavo fosse un M93 questo. No, no, normalissimo. E allora, complimenti, bellissima, forte e chiara. Ok, lasciamo un secondino di bianco se qualcuno vuole entrare, se no riprende Claudio torre controllo. No, io sto uscendo un attimo, sentiamo dopo. Ok, vai a tu. Ok, quanto ti arriva a te da latte dolce, Luca? 9, 9,5. È bello forte qua, qua è più forte, qua è forte quanto è te qua. No, non sta andando, 9,5, dai Luca, tu sei 9,20 più o meno, eh. Non ci confondiamo, Luca è Santa Maria di Pisa. Me a lui, me l'altro Luca. Hai sbagliato. Ho un gioco che assedia. Oddio, hai sbagliato. Non so più Luca. Ciao Dani, io sono passato vicino a casa tua, là. Ho fatto la passeggiata. E dove in zona, là. Ah, scusa Dani, che qua tu sta assumendo? Vabbè, non ho ancora, ho cambiato un'altra radio. E le voci ancora, non mi sono ancora abituato a sentirle. Ciao Dani, ti assomiglia a Luca comunque la tua. Ciao a tutti comunque. Come mi assomiglia a Luca di voce? No, dai, cazzo, così mi offendi il mio tono. Sono musicale. Luca Flipper mi sto dicendo, no Luca Dal Mondo. Eh beh, per forza. Luca è già in radio, se no avresti detto Luca l'altro. Sì, allora, già so come si chiama, ma assomigliate un pochettino come modulazione, tranquilla, pacata, dai. E Luca Dal Mondo è più squillante, ti va esordio quando parla. No, dai, io e Luca più o meno abbiamo la stessa. Vabbè, l'antenna no, perché Luca non ce l'ha più la canna da pesca. La stessa radio quasi abbiamo, sempre una ICO, però anche lui ci esce bene. Vabbè che lui c'ha anche il microfono preamplificato. Eia, sicuramente. Ok, vai Antonio, tocca a te il mic. Papà, salutoni anche da parte mia, eh. Antonio da questa parte. Sì, auguri a tutti comunque. Buone feste. Che auguroni che non ci siamo sentiti, non ce l'abbiamo fatta. Ok, vai l'altro Luca. Me l'altro Luca, venivo giù. Allora, sto facendo confusione, vai Luca. Eia, eia. Ho visto l'antenna nuova, hai messo Dani, ho visto belle a piombo, cazzo, capolavoro è fatto. La cosa che era 5-10 tutta canta barriduccia, il muro sorte, ho fatto le staffe, perfette, vado a piazzare il tubo, tutto quanto inclinato, eh. Ah, devo modificarla quella staffa. Ho capito. Che è successo a Rubaro? No, al palo niente, alla staffa, io ho pensato le staffe uguali, prendo la piazza, piazzo il palo e il palo era inclinato verso ovest, il muro che non è a piombo, io ho seguito tutto quanto, e il muro non è a piombo, ogni paranoia va piazzato il raddoppio. Potrebbe capitare, potrebbe. Vabbè, da. Comunque ha fatto un bel vento l'altro giorno ed è ancora in piedi, sia una che l'altra. E io tiranti non ne ho messo ancora. C'ho un palo in vetro resina, che in poche parole è un doppio, e più dopo la canna da pesca tutta quanta intera. E non ha tiranti. E l'altro giorno ha fatto una bella folata di vento e non è successo niente. L'ha piegata bene, perfetta. Se rubare un bene e cosa tiene, no, non succede niente. Penso che non dovrebbe succedere niente. Calcola che c'ho, allora è 4,90 quel tubo in vetro resina. Poi che 90 li ho messi sotto e sono 4 metri più 8. 4,8, 12 metri di sfilo c'ho. E dovrebbe traballare invece flette e rimane tranquilla. Ma cumari, perché quando succedono queste cose, cioè, no, ma deve avere un po' di flessione, deve avere un po' di flessione. Però già va bene, purate che no, che non succeda niente, dai. No, infatti speriamo che non succeda niente. Luca l'altro, la volta scorsa l'ha vista quando è passato qua e poi dice che ha detto chi c'è noi. Perché che antenna c'hai tu, Luca, Dani? La Game Master autocostruita. Ma tu te la sei fatta o Luca? No, Luca mi aveva dato il progetto, io ho preso e me la sono ricostruita. Adesso stai uscendo con quella, quindi? Sì. Tu pensi di stazionare, c'ho uno e uno abbondante, da. Eia, è molto in alto l'hai messa, quanti metri c'è da terra tu? Da terra dal tetto o dal terrapavimento? No, tu cosa sei, a che piano sei, dove ce l'hai, in terrazzino o ce l'hai sul tetto del palazzo? Io non sono in palazzo, io ho la campagna, casa. Ma tu dove abiti, in che zona abiti per te? Sotto Sant'Orsola Nord. Ah, io pensavo abitassi a Santa Maria di Pisa. No, e latte dolce, sono anni che non abito più a latte dolce, a casa da poco. E quanto è alta l'antenna? Cioè il palo, quanti metri è? Allora, dal pavimento, facciamo dal terreno, fino a dove c'è la fine del tetto, sono intorno ai 4 metri e qualcosa, 4,50. Dal tetto fino alla bobina sono intorno ai 5 metri e 10 e poi c'è tutta quanta l'antenna, dalla bobina all'antenna. Ho capito, ma il palo stavo dicendo è in resina. È in vetro resina, sai che palo è? Spiegami, perché anche io volevo mettere, per fare un lavoro volevo metterlo. Io ne ho uno piccolo, ho comprato un'antenna qualche anno fa, una direttiva però per altri tipi di cose, per ricevere altre cose. Però è basso, è di quelle militari, eccetera. Dove li hai trovati tu i pali in resina, però robusti? Allora, non ci crederai. Sto usando il palo del windsurf. Il palo che tiene tutta quanta la vela del windsurf, della tavola da surf, però quella con la vela, windsurf, e c'ha sotto un diametro da 60 e sopra finisce con il 35 di diametro. Cazzo, di lusso. Adesso chiedo a un amico mio che lui è surfista, eccetera, che ne ha un bel di che cose, li costruivano pure, ce ne ha tante. Adesso dico che non ci avevo pensato, lo sai, l'albero del windsurf. Io ce l'ho avuto tanti anni fa il windsurf, poi l'ho dato via, non ce l'ho buono, non ne sapevo usare, l'ho tenuto poco, l'ho regalato, me lo sono venduto. Infatti è una cosa studiata proprio per il vento. Tu pensa quanto spinge il vento, però e la fa flettere appena appena. Calcola che anche due sezioni a innesto. Io ho preso una canna da pesca che avevo di papo e l'ho inserita dentro e l'ho schiumata. Ah, c'è proprio rigida e leggerissimo anche come palo. Cioè hai schiumato l'albero del windsurf? Sì, gli ho messo una canna da pesca dentro, di quelle vecchie che aveva mio padre in vetro resina, e poi l'ho schiumata dentro, ma non al centro, no, della canna da pesca, all'esterno, che poche poi mi sono incollato dalla canna da pesca al palo. Ho capito, no, di lusso. No, lo sai che molta gente non ci pensa, lo sai quanti vantaggi ti dà fare un palo in resina che non è conduttivo, come può essere il palo in metallo, secondo cosa ci attacchi, se per dire prendi una direttiva e la metti su un palo in ferro, in metallo, diciamo, conduttore, ti cambia tutto, stazionare, ti crea degli scompensi, mentre se lo metti in resina è come che c'è un palo in legno, non è conduttivo, per cui non ti modifica le radiazioni. Siccome devo mettere una direttiva in verticale anziché in orizzontale, voglio fare delle prove, adesso lo chiedo all'amico se ne ha di questi pali, tanto non è che mi serve lunghissimo. No, guarda, mi sa che il più corto che esiste è 4 metri, poi ce ne sono da 5,10, 5,20, dipende. Però l'unica cosa da guardare è che sia in vetro resina, perché ci sono anche quelli in carbonio. Vabbè, il carbonio costa un po' di dinamica, ti danno un po' nel carbonio. Vabbè, però magari lui invece di avere quelli in vetro resina ci avrà quelli in carbonio, e penso che non ti vada tanto bene. Oh, vabbè, tanto non cambia niente. è sotto l'antenna, sotto la bobina, e non succede niente. Sì, sì, no, ma il carbonio meglio ancora, è ancora più resistente, come resistenza a livello più superiore all'acciaio il carbonio, solo non è che lo trovi facilmente, te lo faccio, costa un sacco di soldi un albero in carbonio. No, mi ha fottuto, io adesso gli chiedo se ne ha uno in resina, che è molto meglio, più economico, e basta, tanto ha voglia che ne resiste, basta metterlo bene, che non ci sia un punto dove fa troppa leva, che spacchi, però tanto l'antenna non è, devo sollevarla molto. Sì, infatti. No, ma stavo macinando da molto questa storia del palo. Infatti all'inizio avevo un palo da 60 in acciaio, da 2 pollici in acciaio, che era circa 3 metri, e non mi piaceva molto. Questo signore l'ho visto che è uscito dall'acqua con questo palo e l'ha buttato tra la finestra e la spiaggia. Sono andato la sera, me lo sono preso, me lo sono avvicinato al camper, me l'ho tutto quanto pulito e me lo sono messo sopra il camper. Insomma, sono arrivato qua in campagna, me lo sono subito pulito, messo bene, ho inserito la canna da pesca, schiumato e piazzato subito. Però è leggerissimo, sai cosa vuol dire leggerissimo? Esagerando peserà 2 kg, non di più. Buongiorno Dani. Ciao Claudio. Faccio rientrato, sono sceso mattino a portare il cane. Adesso rientra. Sta piovendo qua? No, no, ancora no, ma c'è un'aria nera da neve. Aspetta, ho visto a Desulo, ieri anche dice che ha nevicato nel pezzo di dopo Cotolongiano, andando per Coso. Ma quella come cacchio si chiama? Campeda o Cotolongiano, dai, più avanti, dai, sto dicendo fesserie, dopo Monorba. E a Desulo era tutto bianco, Maria, pieno d'inverno, ma la neve è alta. Beh, normale, normale, normale. È chiaro che lì l'altitudine è molto più alta, ma già va bene. No, da casa si vede la montagna di Villanova Monteleone ed è tutta bianca. Addirittura, no, non pensavo qua a poter così basso. Figura di sgandi in cima a Bonaria, a Monte di Osio, di Chivi, fa freddo a quest'ora. Chivi batte. Aspetta, c'è Antonio, avanti Antonio. Aspetta, lì ne fa, lì ne fa. Noi non possiamo lamentarci, da noi neve, siamo un bel che non ne vediamo, fa che schizzata ogni tanto. Vai dove c'è questo amico mio a Ponte di Legno, oppure dove c'è Salvatore Maestrale, che dice di lì è allucinante cosa fa di neve, 1 metro e mezzo di neve fa d'inverno. Ma non posso immaginare. No, ma è bello, però diciamo fino a un certo punto, senza esagerare, perché di lì poi ti isoli, cioè, rimani bloccato. Quando c'è la neve, non so se vi ricordate, secondo me che posti va un silenzio, non si intende nulla. Io mi ricordo un anno quando sono andato su verso Burgos con le donne di Cata, che era tutto neve a Bono, ma neve, un silenzio, non sentivi un'anima girare, neanche gli animali, gli uccelli, tutte le cose che normalmente senti i rumori, sembrava in un'altra epoca. Sai che lo fammi le orecchie, proprio c'è qualcosa del silenzio, che non c'è casino. A me piace più il caldo, mi piace più nella zona di mare, è più bello. Già lo so, naturalmente, però il caldo quando è troppo io non lo sopporto. Il freddo già ti copri, ma quando c'è caldo caldo, quell'estate maledetti di qualche anno fa, mamma mia, quest'anno ne ha fatto un pochettino di caldo, ma qualche anno fa viene la murica. Sì, non lo dire a me, non lo dire a me, che io ho lavorato nelle montagne. Io a Sassari ho lavorato poco, io ho fatto tempio d'inverno, ragazzi, che non lo auguro a nessuno, non lo auguro a nessuno. La zona di Trinta, da Gulto in alto, tutte le zone di montagna, oggi non ne va a vedere d'inverno, non ne parliamo d'inverno oggi, alle 6 del mattino con 50-60 cm di neve negli anni che furono, già non è più passato Burui, senza contare quando viaggiavo a Perfugas, che molte volte non riuscivo neanche ad andare a lavoro, ma infatti mi avevo comprato un fuoristrada. Va bene, e allora Danilo, cosa mi racconti? Ci dovevamo vedere e poi ci siamo persi di vista. Ero mezzo incasinato. E io, vabbè, quando capita e c'hai 5 minuti liberi, mi avvisi e ci vediamo. Avanti, attore. Appagata. Beh, in tutti i centenni che mi avete detto, retroresina, cosa è? L'ubbio povero so due, o va? Niente, l'ubbio povero c'è tu sei un lavoratore come noi, prendi e disponi di quello che puoi fare. Abbiamo iniziato tutti come ha iniziato tu, tu qui. Io ho iniziato con una Grand Prix, fate il conto. Perciò poi avevo preso la Super Regibus, che è simile alla Matava, ma un po' più, più fine, che andava molto bene. Sempre quando ero a Porto Torres a casa di mamma. E poi quando sono arrivato a Sassari c'erano già le Matava, e quindi avevo comprato la prima Matava 1 e così via. Ne ho avuto 6 di Matava io. Una Turbo, che non la comprerò mai più, e poi il resto, Matava 5 e Matava 1. Tutto qua, va bene, va bene. Avanti, Roberto. Una domanda al volo a te Claudio, poi dovrò chiedere una cosa a Danilo. Perché è turbo? Che problemi ti ha dato? Troppo rumorosa? Anche una gaggata. Come è fatta a me non piace, è un'antenna che funziona, ma strutturalmente, soprattutto il piattello, la parte dei radiali non mi piace come è fatta. Potevano fare un mozzo unico come la Mantova e innestare i radiali a filettatura. Una cosa fatta meglio, questo piattello a chiusura, è una cosa troppo debole, si spezza, si fa una rottura di base. Ehi, Dani, poi ti volevo chiedere, ne sono capitati a voi, a livello di curiosità naturalmente, di demolire le tralicce, ne avete demolito voi dove sta lavorando tu? A voglia, c'è un traliccio anche in alluminio, mi sa che è intorno ai 3 metri, un pezzo singolo è. E dove l'avete preso? No, l'ha portato uno che ha scaricato. È venuto uno, l'ha scaricato ed è in alluminio questo traliccio. È triangolare. Allora, adesso, perché io ho un amico mio che fa di queste cose, fa i service, quello è grosso, tutti i concerti più grossi li ha fatti lui. Ha detto, guarda se mi trovi un tralicetto di quelli in alluminio americani, si chiamano, quelli a base triangolare, ci sono anche a base quadrata, li usano quando fanno i pacchi. Quelli sono un bel comodi perché sono leggerissimi, poi li puoi comporre, puoi salire quanto vuoi e poi vai, se riesci a fissarli non c'è bisogno neanche di tirarti, sino a una certa altezza naturalmente. Sì, te lo sto dicendo, l'ho anche messo da parte, perché stavo pensando di prendermelo io, solo che non so dove piazzarmelo qua sul tetto. 3 metri è quello. 3 metri è, non è tanto lungo. Vabbè, fammi sapere qualche cosa, vedere cosa ne vogliono per curiosità. Domani glielo provo a chiedere, magari gli dico che è per me, così mi fa qualcosa di sconto. Ma è dal Porto Torres, stai dicendo, a Predagnetta? No, a Predagnetta, in viale Porto Torres non ce n'è di questa roba così, la demoliscono subito perché non pensano a niente. Quando ci do io i pali telescopici, tubo telescopico, te ne ho fatto vendere 4 da 18 metri. Chissà, 18 metri è tanto. No, ma di lì è bello perché tu ti metti bene ancorata la base, ci puoi anche arrampicare sopra se sono fatti bene naturalmente, e poi ci metti un paletto di 2 metri sopra e ci piazzi l'antenna senza il rompimento di scatole di tirante né niente. Sì, già lo so di questo. Ma comunque quello dei tubi telescopici erano quelli che i tubi che usavano per la velocità del vento dell'eolico. Penso che quelli di Porto Torres, se non me lo ricordo chi l'aveva portati di vista. E gli ho detto, perché ce li state buttando questi pali? Perché ormai non li usiamo più e abbiamo un altro modo per calcolare la velocità del vento solamente di una pala eolica. E gli ho detto, cioè, ormai su ci abbiamo messo il coso che gira il vento, che ti dice la velocità, e fa tutto quanto lui. Sì, adesso c'hanno tutto senza cavi, l'anemometro, c'hanno tutte le indicazioni, ti colleghi un cellulare e fai tutto, non c'è bisogno di mettere il pali. Ce n'è uno buttato giù a Porto Torre dove ci sono a Fiume Santo, dove c'è il coso dell'Ena, ce n'è uno enorme di questi, lì c'è una palla in terra, vabbè, ma non ne fai niente, quello devi mettere soltanto se c'è un terreno per piazzare, mica te li metti in palazzo. Ma quelli in alluminio, che sono piccolini, da 3 metri, poi li metti un palo di un paio di metri e ci appoggi l'antenna sopra e guadagni, è come che c'è 5 metri di palo senza bisogno di tiranti. Niente, sono leggeri perché l'aria ci passa in mezzo, sono a base triangolare per cui li puoi ancorare bene, c'è modo di fare qualunque cosa. No, sono belli, avevo chiesto a questo amico, ho detto fammi sapere, perché se vai a comprare cosa ne è un bel di là, però ci sono quelli per dire, quando li smontano, adesso ogni tanto ne bigiano anche uno, quando c'è qualche cosa li cambiano ogni tanto, siccome devono essere certificati quelli che fanno i coso, questi concetti, cose così, devono essere a norma, se c'è qualche difetto strutturale li cambiano direttamente perché li fanno i controlli, quelli che fanno le certificazioni. E detto, qualcosa già capita, ti faccio sapere. Comunque se c'è uno alla Marcello, chiedi per curiosità cosa vuole. Domani quando entro glielo chiedo, perché domani ci rientra la base. E io, vai Antu. Chi conosci tu che fa queste cose? Antonello si chiama. Perché già ne conosco un po' di questa gente che fa il service. Questo lo fa da una vita. Poi me lo sono bella ruffiato, siamo molto amici, un ragazzo troppo in gamba. Il fratello è il pilota, mio pilota, il meccanico di Leclerc. Ogni tanto mi ha regalato cosa, magliette, cosa del genere. Ha detto buscami il giubbottino, ma non c'è quanta roba di dal fratello, il meccanico di gara di Leclerc, giovane me, però è entrato nel